talmente amicizia che guai a toccarglielo, capito? Io lo lasciavo qua, mica cerca, ce l'ho chiuso, cerca nel giardino, che adesso siamo scendendo a Sassera a portare roba qui e là, non ti preoccupare, lo controllo io. E ci andava anche, ehi, papì, dov'è? Cazzo, ma è affezionato, una cosa impressionante. Ma poi i cani se lo sentono, cioè vanno anche a simpatia loro, capito? Io ci sono persone qua che sentono, li fa le feste, ci sono persone che non le fa avvicinare. Passa lì alla luna a toccarlo, dì che bello, va a toccarlo, no, io gli ho fatto, no, cazzo, manco di tu, mi ha fatto il tempo per tirarlo. Mi stava già saltando addosso. Vedi, quando anche a me non è che mi ha subito mi ha presentato, viene, lancia la pallina, gioca, cioè si vede che era un cane abbastanza affettuoso, però come dici tu ha simpatia. È il mio lo stesso. Il mio se non ti può vedere, ti abbaia, ti ringhia, ti fa. Poi l'altra che c'è, la torrelletta che c'è più su di me, proprio all'inizio della strada, cazzo, c'ha due bestioni, una cosa impressionante, infatti io non sapevo che cani erano. L'altro giorno mi ha detto, ti faccio vedere due cani, cazzo, ma il cane c'è lui. È un pastore maremmano incrociato con un fornese, una bestia, un cavallo, base, grande, bianco, beige, non è bianco, è beige, però è bello, pulito, beh. E l'altro sembrava un mattino napoletano, invece mi ha detto che è un Amstaff, del genere, ma grandi, quindi non quelli non li fa mai uscire perché sono cani cattivi, capito? Lì come passi con la macchina già ti abbaiano, mentre Filippo ne ha tutti un da se cucato e tutti fermi davanti al cancello, manco per le palle ne frega. E quello di Gambino di Gioca, l'hai visto là? No, me l'ha detto, però non l'ho mai visto. Che cane c'ha? Pasta del fornese, cavolo, l'ha messo un po' di volte su Facebook, io l'ho visto su Facebook, lo mette su Facebook, Tania Ganiche, però beh, pasta del fornese non mi piace come estetica. No, ma siamo da un bel, non ci sentiamo con Gavino, siamo parecchio, ma abita sempre giù alla fine della Budibuti? No, non so, io sapevo che abitava sulla strada per andare a Sossoli, dove abitava Melitto, per intendere. Sì, lì sto dicendo, non so se abitasse il Pelibu, non lo so, perché poi aveva chiuso il circolo e stava facendo altro, siamo sentiti, eccetera, però... Ma poi mi aveva detto che riprendeva, invece non l'ho più sentito in radio. E poi la bambina è nata tutto quanto, ci sono state tante cose che magari l'hanno impegnato, adesso sta facendo service, eccetera, eccetera, con Brisco. Sì, no, quello già me l'ha detto perché siamo sentiti in radio, infatti era in quel furgone, stava rientrando dal lavoro. Però quest'estate, sì, sapevo tutto, anche perché il padre c'è la mia età, siamo molto amici, siamo cresciuti assieme, io in via Cavour, lui in via Petronia, quindi è così, la vita. Cattalino, Antonello, io riprendete, gappa. Sono voi. Aspetta. Così, vabbè. Oh yeah. Stasera mi compro le pizze, una giovana di valuta. Bravo, anche noi. Ilaria è uscita dal lavoro, è andata a Porto Torres che si doveva terminare un tatuaggio da Manola. C'è l'appuntamento. Quando rientro non cucinate niente, che salendo prendo le pizze e ci mangiamo una bella pizza, vabbè, cazzo non me ne dovrà vedere di notte. Infatti no. E il sabato più o meno lo facciamo sempre noi. O andiamo in pizzeria oppure ce la portare a casa. Adesso stasera non ho voglia di uscire. Io guardo tu sì che vales. No, anch'io. Mia moglie non mi piace, dice sempre le stesse cose, se me a me piace. A me piace, invece che Lulù e Rovena ne mi tocca bene dal mio grande fratello, non dico niente. Per non stare qua in stanza da solo, perché ce l'ho la televisione qua. Ieri mi ho fatto la partita qua e loro ci hanno guardato il grande fragello, cazzo. piccolo sei sciabile. Oh ya, avevano un troiaio di sagasa. Oh ya. La moglie di quello con la barba, come si chiama? Quella lì è entrata a fare lo scandalo a Solis. Già l'ho visto uno straccio. Vabbè, ma Alex Belli tieni conto che è un grande figlio di puttana. Capito? Perché già ne ha perso uno nel matrimonio. Ed è ancora, attenzione che questa, vedi, non è la moglie. È ancora sposato lui con la prima moglie, non gli ha dato il divorzio, ho capito. Quindi cosa dice mia moglie? Ma è un'uvata da gatto, è un linguidori, e quella è più mignotta degli altri. Ma sa il fatto suo, sa di essere bello, che piace, quindi. Però la moglie ha tutte le ragioni, se è la moglie, non lo so, la fidanzata, la convivente, non lo so, però ha tutte le ragioni, e anche se li sono andati tutti contro, aveva ragione al 100% di lamentarsi, che se quella lì si sta cuccando il marito. Sì, già cuccando, già mi difende, cuccare è una cosa un po', capito? Non è la moglie, gli ha dato il consenso, però quell'altra, la prima moglie ancora non ha il divorzio, ho capito. Gli ha dato il consenso, lui l'ha sposata, forse l'ha sposata in chiesa, non lo so, hanno fatto una cosa per i fatti suoi, però non ha ancora avuto il divorzio lui dalla prima moglie. Però in ogni caso, moglie, convivente, ragazza, eccetera, il comportamento, perché oltre a essere lì che provoca, anche lui ci sta, guarda gli altri, guarda Manila, quella è sposata, quell'altra è sposata, o è divorziata, però c'ha un figlio a casa, quindi cioè, chi ha un contesto un po' delicato cerca di fare le cose fatte bene. Invece lui, un che sta imbecille, che va a 20 anni, va a 23 anni, 26 anni, ma non si vergogna. Claudio, quella che all'inizio con Nicola stava facendo la gatta morta, il figlio ce l'aveva anche prima, pure prima faceva, io ho notato questo, se andava a letto insieme, si coccolavano, si facevano, e il figlio ce l'aveva anche prima. Non mi trovi scusa adesso del figlio, è che lui ci ha ripensato sicuramente, quello sì, però non è il figlio che la blocca qualche altra cosa, perché prima il figlio ce l'aveva lo stesso, eppure la macca la voleva zero Martessi. Anche quello è vero, però secondo me l'età la blocca lì, aveva bloccata l'età, infatti ha visto che è uscito Nicola ieri, è uscito. Io spero che escano gli si tre cupi di misole, Prince, ma Prince di cosa? Perché dai, mi dice Lulu che non te fai un solo cubai, Lulu la brucia lì su. Mamma che brutta me, mamma di Turchi, mamma di Turchi, non te un solo cubai. La più bellina di quelle tre è la grande, Jessica, gli altri due sono fake. Ehi, è vero, c'è una sola carina. Cazzo, non possiamo fatto con le labbra che sono boh, cazzo, Bari è un gommone, Bari. Ma infatti Mano è poverino, almeno c'è da seguirla bene con la storia lì, perché c'è un ragazzo sportivo come lui, giovane, si è trovato in un contesto sbagliato, cazzo, ma non si può, ce l'ha dichiarato, cioè io sono qui perché voglio svagarmi, perché voglio capire la mia vita, perché voglio avere i miei spazi, non dipende da nessuno, cioè te lo dicono 100.000 volte, gliel'ha ripetuta questa ragazza, e tu sei un assillo, un piombo, un poipo, sempre in alto, ma molla, amica. Infatti non riesce a capirlo, non è riuscita a dare i suoi spazi. Vabbè, anche lì magari è innamorata e non ci riesce a bloccarsi, capito? Non ci riesce a fermarsi quando deve. Però lui adesso gli ha detto che era tonno, che non ha prima, sì, un altro giorno ha detto che anche fuori si avrebbero continuato, e adesso di nuovo si era mandato. Già ti ho sentito, adesso non ti prendermi l'accendino. Guarda adesso, se tu metti al 55, si offende tutti in ginnastica, vedi se si guri all'aria che vi so. Ma già lo so. Io ho visto quella sera di Halloween, i casini che sono successi, una ciuppa di con uno, una ciuppa di con l'altro, ubriachi che l'ha vista, era le pacche, dai. Allora, Alex Billy, allora andiamo qua a parlare. Dai, c'è un uomo grande, no? C'è sempre in televisione, vabbè, però io dico, ma quando mai non reality del genere, che ho visto in tutto il mondo, come fa la produzione a mandare dentro vino, tutte queste cose così? Non va bene, secondo me non va bene. Perché non li fai fare reality così all'interno col minimo indispensabile, oppure metterli in condizioni di guadagnarseli i soldi per mangiare? Ah? Cioè c'è un abisso tra il reality del Grande Fratello e l'Isola dei Famosi. Comunque, all'Isola dei Famosi ha giù di muri di fame, che molta gente è stata male e ha abbandonato il gioco, cioè devono morire di fame. Cazzo, lì c'è di tutto e di più, di tutto e di più. Claudio, prima Grande Fratello, se volevano mangiare, se dovevano guadagnare, gli facevano fare dei giochi, se passavano guadagnavano da mangiare, se no rimanevano senza. Non so se te lo ricordi, adesso questi qui sono famosi, quindi sono trattati da elite proprio. E vabbè, è tutto manovrato, secondo me, è tutto. Adesso dice che anche come si chiama, il presentatore, a Signorini, praticamente lo vogliono eliminare e metterci una sua presentatrice al posto suo. Già, io c'ho un amico che chiama il Grande Fratello, il fratello dei falliti. Sono tutte persone VIP, che non lavorano più, che non li vuole più nessuno, che non si sentono più da nessuna parte, e creano questo contesto per farli guadagnare dei quattrini a gratis, senza far nulla. Allora fai un reality di gente comune, fai il Grande Fratello normale. È già la terza, la quarta edizione, questo cazzo di Grande Fratello VIP. A me di vedere questi scansafatiche, questa gente fallita, che non è più nel mondo dello spettacolo perché non vale più a niente, guadagnare dei quattrini. C'è una Katia Ricciarelli che Pippo Baudo le passa 12.000 euro al mese. Che cazzo ci fa lì dentro? E infatti è uscito quella freddura. Qual è il colmo per Katia Ricciarelli? Non lo so già. A me mi sta un po' sulle balle questa situazione, capito? Perché i soldi ce li hai, non hai bisogno di andare a fare un reality che sia una zompa, detto in, per non dire altre frasi, lì messa a fare che cosa? Non cucini, dormi, mangi, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, e chissà quanto ha chiesto settimanalmente alla produzione, a Mediaset. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, il colmo per Katia Ricciarelli è non scoppare con Pippo. Se si vira gli assi lavati giù per Scasella, a me mi fa morire. Ma l'hai sentito cosa ha dichiarato l'altra volta? Che lui si alza con l'altra bandiera. Chi cosa? Come si chiama il mago? Ma come si chiama? Non mi ricordo. Giù per Scasella. Signorino, prende in giro, com'è questa storia che tu la mattina ti alzi con l'alza bandiera? Ah, io sempre con l'alza bandiera. È un figlio di mamma sua, lei, la tua bella Lucy, è sempre zicchendi, con chissà, con quella poppona, sempre, mi hanno fatto tutti i culi, però c'è sempre a bracciare in bocca, bubu. No, la prima che la puoi le mani nei ditti, lei ha detto con Francesca Cipriani, e le ha detto, stai attento che scoppiano. Cipriani, suonando a buvissa, pacare, da casa già fatti i capelli viola. Mi ha fatto tutti i rigurori, dopo ieri ha fatto finta di tagliare i capelli, si è messo a piangere, cazzo, è come i bambini, non ho visto quanto è suonato, quando gli dico di andare nella stanza, non so cosa, sbaglia sempre porta a casa, ma dov'è, a destra, va a sinistra, è suonato. È una campana, giù Cascasella, è una campana, lascia perdere, però è bravo. Un bel personaggio, vai, da mettere lì dentro, fa audience, ma gli altri che ci sono, tu prendi Miriana di Parita, cosa ha fatto? Non è la RAI, poi dove si è vista Miriana? Che l'ho più vista. Più Cascasella, ipnotizzava la gente, ipnotizzava le galline, e cosa c'è? Sì, un mago di galline, cosa fai? Cosa hai fatto? Chi sei? Dove? Aiuto, lasciamo perdere. L'unico personaggio veramente che può essere interessante lì dentro è Manuel, ma non perché è nella posizione in cui si trova, perché poverino è un ragazzo che ha avuto sfortuna, stava iniziando la sua carriera da sportivo, ok, e ci può stare. L'altro, lo spadaccino, come si chiama, Aldo Montano, ci può stare, è uno sportivo, non è che sta facendo il male a nessuno, sono terminate le Olimpiadi, è terminato tutto, si fa un reality e va bene. Ma gli altri, chi sono? Queste pinche, chi sono? Dove cazzo sono uscite? Vipi di cosa? Le hai mai viste in televisione tu queste tre zoccole brutte come quella del faro, cazzo? Lì ci pensa addirittura, sangue blu, da dove? Allora c'è il gruvabo, non so cosa è successo, tutto un casino quel posto. Mille salamiti, mille cose, via, fa caridare. Purtroppo per fare udine se fanno tutto, magari sono pagati, anche magari la moglie, far finta di baciarsi a quella, magari è tutto macchinato da loro, non lo so, per fare udine. Manila ha fatto Miss Italia, non ha mai fatto un film, come può essere, come si chiama, che ha fatto quel film bellissimo. La famiglia cosa era, comunque Manila cosa ha fatto? Solo perché la compagna forse diventerà la moglie dell'ex calciatore, che è un bravissimo calciatore, per carità, Moruso, bravissimo, grande giocatore, campione del mondo eccetera, e quella poi dica siamo validenti di Francesca Cipriani, che è una cretina che non viene bene a dirlo, quell'altra Carmen Russo, cioè di cosa siamo validenti? Ha fatto il bagaglino, poi che cosa ha fatto? Chi ti ha più visto? Erano buchi tutti i clienti a guadagnare, ma lo sai soldi che prendono già alla settimana? Quindi per fare un reality, ma tu prendi una Katia Ricciarelli, che è un tenore a livello mondiale, come poteva essere Pavarotti, o come Pavarotti, ha chiesto un pacco di soldi, e stai attento che loro sono convinti che il prossimo mese finisce, ma continua sino a marzo, quindi amministra 6 mesi in TV Trento, lo sai chi? Tutti se ne vanno, tutti, perché non vedo l'ora di andarsene, soprattutto chi ha figli. Vabbè, non ce la fanno, deve essere una cosa brutta stare chiusi così in una casa, malgrado ci siamo tutto, c'è piscina, c'è tutto quanto, però lontano dalla famiglia, da tutti quanti, deve essere, poi è una cosa che sei obbligato a fare, quindi non puoi perdere più una scelta. Allora che te ne vai e perdi tutto, capito? Però se vuoi guadagnare qualche cosa devi restare, devi giocare. È pesante stare chiusi, poi alla fine diventano tutti nervosi, non si sopportano più uno con l'altro, alla fine scoppiano. Aspetta che deve entrare altra gente nuova, perché mia moglie segue tutto, quindi mi informa, no? Deve entrare altra gente nuova. Adesso man mano che escono, che vanno via, perché dal 22 adesso quanti sono? Sono 16, è andato via Nicola ieri, quindi sono 16. Adesso iniziano ovviamente a portarli a 22, quindi non fini più questa cosa. E tu vedrai chi entrerà, saranno tutti dei piscuani, dei falliti, ex VIP, messi lì a farsi dare i soldi da Mediaset per fare che cosa? Per fare audience, capito? Solo per quello. È un reality che è molto seguito, tre volte al giorno. Avevano infatti un giorno di programma perché gli altri non la stavano seguendo più, quindi sono abbassati gli ascolti, ti tolgono il programma. Se fai entrare su li va bene, se rendi va bene, se no ti fanno fuori, capito? Anche a Signorini adesso dice che lo mandano via e metto la panicuccia al posto suo, almeno è più, fa più piacere, dai. Sì, vabbè, signorini, già sa fare il programma, già lo tiene in piedi. È chiaro che una donna è più fattibile magari avere un po' più di ascolti a chi piace, ma la pane in cucina non piace, è bianca come un polpo, Castle. A me che piaceva era cosa, come si chiama? Bah, che facevano le iene, no, non me la metto, comunque quella lì, ma anche quando c'era Barbara D'Urso faceva cagare, signorini un po' simpatico, insomma, va bene, e se no quelle due opinioniste, cioè la moglie di Paolo Bonolis, andare a fare l'opinionista lì, a fregare quattrini, che Paolo Bonolis è uno dei più, uno, forse il più pagato di Mediaset, ma di cosa siamo fra i denti? Quell'altra fallita, l'hanno buttata fuori dalla RAI e è andata a fare l'opinionista a Canale 5, ma mica l'Amazonia, me. E avrei voluto vedere se quello che hanno detto nei confronti della moglie di Coso, come si chiama, se l'avesse fatto il marito a tradire, se avessero pensato la stessa cosa. Hanno detto ma qua, ma là, loro vanno d'accordo, sono una bella coppia, ma come fa a parlare così? Sai che sono sposati, sai che stanno insieme, e cose, tu parli così. Sì, ma infatti a me non piace Sonia, no. Può essere anche interessante come donna, ma cioè non hai nessun diritto di andare a occupare una poltrona a quei livelli. Sei la moglie di Paolo Bonolis, cioè ti ripeto, la moglie di Paolo Bonolis, ma Rosario di Nagli fa Paolo Bonolis, non hai idea, e tu vai lì a occupare, anche lei sta bene, come famiglia, come tutto, c'è un bel lavoro, non so mai cosa cacchio faccio, ma vai ad occupare una persona che potrebbe occupare, una persona che veramente può fare l'opinionista ai tuoi livelli, che però non è ai tuoi livelli, capito, come soldi. No, capisco veramente, è un reality che io non seguo, mia moglie lo segue tantissimo, adesso mi ce l'ha in diretta, lei non si stacca dalla TV, è sempre lì su Mediaset Extra a guardare questi quattro imbecilli che tutto il giorno a vedere cosa fanno, la grande gente bella, la grande gente d'occa, a me non interessa, però dico, è un reality che non riesco a capire il perché sia così. Secondo me era meglio quando lo facevano con gente normale, gente comune, quel programma lì. Era più, non conoscevi le persone, quindi avevi anche il coso di conoscere, di vederle, cose. Adesso questi qua, cavolo, bene o male, faccio bisogno di tutti quanti. Diciamo che Giuca Scarinello è quello che fa più ridere, quello che fa, che tiene il banco, dai. Però, cioè oramai a furia di vederlo ti stanca, mamma mia, ti stanca vederlo sempre. Solo che le donne non so come sono, si guardano queste cose. Vabbè, te lo guardino, se vuoi ti dico, a me non interessa. Io di sfuggita così purtroppo sono costretto a volte a guardare qualche straccio, ma poi mi guardo la mia TV, non mi frega niente. Antonello, cambiatela questa radio, non ti piace Grande Fratello, non ti piace Grande Sorella, ma Antonello mi è piaciuto, l'ho detto. No, Antonello è sparito. Sta stirando le camicie. Fratellino, ci sei, non rispondere, ma se sta facendo altro. Cava, vabbè. Purtroppo questi programmi spazzatura, così chiamati, adesso sarà l'ordine del giorno. Qua, tu si cavale se mi piace perché ci sono atleti, ci sono cose che non hai mai visto. Quei ginnasti oramai li ho fatto un po', diciamo, alla house, li ho visto, però ci sono cose che vedi che ti lasciano la bocca aperta. Veramente, che ci sono degli atleti che sono veramente bravi. E anche lì, vabbè, Mario De Filippi sappiamo che fa questo tipo di programmi e sono abbastanza seguiti, sono dei programmi a volte anche molto interessanti, vede delle belle cose, eccetera. tutte le sterme che fanno, no? Quando fanno delle sterme fuori, ma anche all'interno dello studio fanno belle cose. A me mi fa di morire il suo vicinetto con Sabrina Ferilli. Dammi qualcosa, dammi lo straccetto. Con Ferilli ce l'ho con lui. Chissà che cavolo, io stavo pensando che era uno di quei due che fanno quando chiama Piero. Uno di quei due mi sembra. No, sono più alti quelli già, sono più alti, tip e tap, nella scuderia di Gerry Scotti. No, già, secondo me non è un bambinetto, non è un bambino mio, è un nano. O è qualche nanetto, perché c'ha, se tu stai attento, c'ha la voce da persona grande, capito? E poi è furbo Marazzurri. Ah, io dammi lo straccetto. Non è uno straccetto questo, vai via. Che ti ha avuto l'invariata di Ghana l'altra volta, hai visto quell'affare che c'hanno per toccare il tempo, l'ha avuto un'imbarriata, è fuggito e lui gli ha fatto le corna, che ha preso un manetto, ci aveva un manetto e gli l'ha avuto in terra. L'altro giorno hai visto, ti ho portato le caramelle perché voglio fare la pace, io caramelle a te non le voglio, prendi una caramella, non le voglio, prendi una caramella a te, prendi le caramelle e le anche tutte a capo. Già l'ho visto, sì. Via. È simpatico, prima c'erano quelli che mi facevano paura, quei fantasmi, le streghe, adesso hanno messo questo qua. Adesso te lo porto, dammi lo straccetto, io ho una sciarpa di quei fularga, se questa non barca di soldi, altro le straccette. E comunque è buona ancora Sabrina Ferilli, è già di Minici Tibiasi. È buona, no, non ti riguardi, già lo so, è buona, si vede. E vabbè. È grande però, nello stesso tempo è si danno un po' gli esempi distintivi. Oh yeah, ogni volta ci sono attenti, guarda sempre il pacco di guarda. Ma ricordi già quello che è uscito vestito di bianco, cos'era, maestro? Madonna santa, mia serpente va via, era sempre chi viene via. C'erano per cazzo di stretti, fattore di stretti. Cazzo, a Maria l'ha detto, guarda, e Maria ridendo, oia. Lui è romana proprio, romana di Trastevere, Sabrina Ferilli, è troppo dolce, è una barolaccia che dici. Hai sentito proprio, guarda quello, c'è un serpente quello. Una volta ha detto che se vinceva la Roma si metteva a sedere nudo e ha fatto la sfilata con le macchine e si è messa a sedere nudo. Sì, ha sfilato montando Reggiseno allo stadio quando aveva vinto lo scudetto la Roma e poi l'aveva fatto, non ha problemi di Sabrina Ferilli. Oh yeah. Per carità. E ogni tanto quando arrivano degli atleti, sia lei che bene, sa mai dai fisici invece, si guarda il fisico. Mi sa fra il sugar, si trova davanti. Ho letto proprio di Belen che si è lasciata, che ti fai un figlio e ti lasci. Mi pare cosa, come si chiama? Marcuzzi, La Marcuzzi mi piace tantissimo come presentatrice, del Grande Fratello. Come te la Marcuzzi, cioè si è fatto, vabbè, con Simone Draghi che è grande figlio oramai. Poi se ne ha fatto un altro con Facchinetti e si è legata a Dora. Sì, già è brava, ma c'è le gambe un po' storte, la Marcuzzi. Sì, ha fatto il meglio padre Salvini già. E io sono occhio clinico, guardo bene, ha le gambe un po' storte, però è una bella donna, dai, nel complesso non è male. Andare, lei va bene. E cosa Silvio Pier Silvio guarda chi li fa guadagnare di più, sempre un'azienda è quella, ha detto che sono andate oltre quello che le aspettative che avevano come guadagni. No, fa belle trasmissioni, Mediaset, no, Marco, ma c'è sempre il padre dietro, per carità, anche se Pier Silvio oramai è lui il presidente di Mediaset, però fa dei bei programmi, non c'è un bel dubbio, dei bei reality, belle cose, ad esempio quello la Tofanin, che è la compagna di Pier Silvio, Vissarra, già tu cadovessi, quella c'ha il la vita assicurata, tranquilla. Bello, bellissimo, un bel programma di cronaca, di spettacolo, di tutto. Mi sta piacendo anche quello di Ivo Zanicchi, quel programma, un po' di musica, un po' di gossip. Va bene, insomma, pensavo peggio. Poi un'affame. Ivo Zanicchi aveva cagato in studio, mi ti ricordi, tanti anni fa. Ma Ivo Zanicchi ormai non stava più facendo nulla, adesso l'hanno fatta resuscitare. E tu l'hai fatta resuscitare, secondo te? Ricordati già che tutti questi programmi, tutti questi reality, a prescindere da Verissimo, che è chiaro, è un programma della compagna del presidente di Mediaset, ma tutti gli altri programmi, tutti Maria De Filippi, tutti Ranchini, Bacchini. Lo so, e quanta gente ha fatto entrare a lavorare Maria De Filippi? A me l'ha fatto entrare Marcia Costanzo e non l'ha negato, l'ha sempre detto, io se sto lavorando qui è per Maurizio, perché se no io non avrei fatto questo tipo di lavoro. L'ha detto sempre, lei è molto sincera, molto riconoscente nei confronti di Maurizio Costanzo. E poi lì a sua volta ha fatto entrare Emma Marrone, tutte quelle lì, tutti quei cantanti nuovi che ci sono, le sta lanciando lì da Amici, insomma si è dato da fare per aiutare molta gente, la verità. Sì, si dà da fare, si dà tanti, perché Geri Scotti era una pessima cosa. Vabbè, Maurizio Costanzo era vicepresidente di Canale 5, quindi è chiaro che ha fatto di tutto e ancora conta parecchio. Ancora conta parecchio per l'età che ha, ma il programma Maria De Filippi si sa, sono programmi molto, molto seguiti, molto Amici, è fantastico perché nascono dei bravissimi cantanti come Emma Marrone, come tanti altri, capito? Quindi quello, poi c'è Posta per te, poi c'è Tu sì che vale, perché l'Isola dei Famosi, cosa pensi Galeadda, Temptation Island, come si chiama, chi l'ha ideato, tutti Maria De Filippi, sono tutti programmi ideati da Maria De Filippi. Se tu leggi quando appaiono le cose, c'è lei, ideato e prodotto da Maria De Filippi, tutti quelli sono tutti di Maria De Filippi, è un cranio che si avverma, è un'altra bella uscita. È buono, cappa. Ok, io adesso ti saluto, dai, che devo andare perché devo farmi l'ordine, se no le pizze non me ne possono mancare 10, e poi devo andare in bagno, dai, ci sentiamo magari domani. Buona serata a tutti, anche agli ascoltatori, grazie per non essere entrati, mi ha fatto piacere, dai, fare questo, ciao, ci sentiamo. Ciao, già, saluti a casa e ci sentiamo alle prossime, sono qua in ascolto, ciao. C'è qualcuno su 10? Attento 10? Siamo già tutti andati. Beh, già fa. È vero, beh. No, sto cercando perché c'erano dei programmi. E volevo vedere se funzionavano per il controllo del DAB. Ma mi pare che è tutto morto. Ma il DAB è a cosa? A Monte Alvaro è? Non so, non così. Vabbè, sono più di un mese che non l'ascolto, ma era tutto bloccato. Dimmi una cosa, cambiando discorso, quella chiavetta che mi hai dato tu, l'ho inserita, e per fare la partita da su SDR Sharp deve entrare. Sì, su quello e su tanti altri. E come mai non me lo ha? Mi apre una pagina, però non riconosce forse la chiavetta, boh. Perché vuole programmato. Ah, io pensavo che fosse in automatico, schiaccia e va. Si fa presto a dire in automatico. Come mi devo comportare? Mi vuoi aiutare o lo facciamo un'altra volta? Se è una cosa veloce, lo facciamo anche adesso. Se no, boh. Sei tu il maestro, il computer è già acceso, la chiavetta è già inserita, è pronto ad andare, c'è il cavetto, vabbè, l'antenna è un cavo così fittizio, dai, non è un granché, ma per ricevere la radio dovrebbe andare bene. Sì, aspetta che chiudo questo programma perché sa che non si chiude, te lo immagini. Stavo dicendo, ma non c'è nessuno, non è stato nessuno? Sì, c'era Claudio, c'era tanta gente prima, c'era Gianni, io ero impegnato a fare questa cosa. Com'era la questione? Non me la metto più. Io sto avviando il coso, vediamo se mi appare il BD. Tu c'hai acceso? Sì, è pronto a ricevere la connessione? Sì, è già attivo, tutto quanto attivo. Ah no, vabbè, ma su TeamViewer vuoi farlo da lì tu direttamente in remoto? Beh sì. Dimmi se ci spostiamo, se vi disturbiamo per ore qua. Andiamo su 16 come l'altro giorno. Esecuti. Va bene, già me di scarico elettrostatiche, non so tu, ma io ho visto le previsioni, domani pioggia, addirittura mercoledì temporale, ma domani lunedì pioggia. La partita, quindi aspetta un attimino, provo a fare una cosa, ma non ho toccato niente, provo a accordare. Ora ha cambiato una cosa, guarda un po'. Ora no, 9:10, ma evidentemente mi sono confuso io con qualche segnale che ho visto col baracchino che si più di 20, capito? 9:10 va bene, ti viene a fare i buchi. Sì. Uno per l'altro è qualcosa in più, anche se non sono 500-600 in più. Beh, infatti lo conto, già va bene. Ottimo per la truppa. Magari se non sta fischiando più. Gli ho messo il cavettino di massa dietro, il giallo verde, attaccato alla barra di rame. Io metto sempre la barra di rame tassellata al muro, non l'avevo attaccato, ho detto, non stava difettando, adesso non difetta più. Oh, 30 watt, anch'io 50 modulati, mentre invece volevo fare la materia 20 e mi fischiava, adesso non fischia più, evidentemente non c'è un buon piano di massa. Va bene, facciamo scaricare così, già funziona bene. Non controllo al computer perché stavo controllando sul telefonino e mi dà dalle 2 di stanotte pioggia. E infatti è in arrivo perché a me le radio mi avvisano, mi è venuta la faccia, un bel discarico elettrostatiche. Vabbè, spero di no perché domani esce lì. No, ma non è neanche più attendibile quello del telefonino, eh. Effettivamente molto poco mi dà. Sereno, addirittura mi ha messo pioggia alle 8, alle 23 invece sereno, poi pioggia dalle 2 fino alle 11 del mattino. Anche a me mi dà così, allora uguale, dalle 2 alle 11 del mattino. Beh, la giornata spettacolare, io gli ho fatto un sacco di cose. Domani mi volevo lasciare il prato, fare un po' di carne arrosto. Sembra la giornata come oggi, almeno di mattina, non di pranzo, però se piove ci tocca stare dentro, affanculo. E vabbè, la campagna è ste guy. Vabbè, no, io già mi ha fatto ieri sera. Poi vabbè, domani se piove già siamo sotto la veranda, quindi già accendo lo stesso. Ma mi interessa, volevo vedere la partita così all'asciutto, tra virgolette, perché oggi è una bella giornata, e ti dirò che stiamo scuotendo olive, quindi è andata anche bene oggi. Ah, state ancora facendo le olive, ma Gambino ce l'ha sempre la trattoria, sì. No, da anni. Adesso c'è circa, se non mi sbaglio, circa 10 anni, mio cugino, quel sanguisuga. E cosa c'ha lì? Solita cucina sassese, però con qualche aggiunta di cose sue, diciamo. Ma si chiama sempre trattoria di Martino, no? No, adesso ultimamente ha cambiato trattoria da Gianluca, non c'è più la trattoria Martino. Sì, Guasugas, una cosa mitica per Sassari, cosa cambia? Cioè, Carmelo ha sempre lasciato il nome del padre, trattoria l'assassino, è stata sempre chiamata così, quando è morto il padre lui ha continuato con la stessa... Tanto è uguale, guess. Beh, sembra che vogliono fare chissà che cosa, ma... Si è aggiornato, dai. Si è aggiornato è che, diciamo la verità, che gli anni d'oro erano quando conosceva mio padre, mio nonno, e diciamo la cosa tradizionale era quella. Adesso, sinceramente parlando, non c'è più gente che... o perlomeno chi ce l'ha, se la fa a casa, non c'è più la gente tradizionale che andava lì a mangiarsi il piatto della trippa, hai capito? Già ci ho mangiato anch'io un sacco di volte, però dico l'insegna lasciala, cioè una cosa storica per Sassari, capito? Allora ci andiamo a mangiare Dio Martino, ci torniamo a mangiare Gianluca, cazzo Gianluca. Sì, diciamo che è giusto chi lo conosce, se lo conosce fa così. Vabbè. E le olive quindi le state sempre facendo? Che cosa? Le olive le state sempre facendo? Per noi però. E sugar, veramente chissà la cantina. Avevamo vecchio pregiardino. Vai e prendi un coso di olive. Un'impresa era entrata 30 anni su Gozo. E tu pensa che a grande età c'entrava anche buono il mio nonno, quindi ti puoi immaginare. E sugar. Vabbè, noi andavamo volentieri perché c'era anche il vinello. Allora. Nonno ha fatto, è lì al suo nido. Ascolta, lì invece cosa c'è adesso? Questo che è tuo cugino, ma cos'è in gestione? Ho preso tutto lui, perché c'era anche la casa lì. Allora, la casa l'ha comprata l'altro fratello, ha fatto due mini appartamento e li ha affittati, credo, perché non so se è andata a buon fine la cosa. Mentre invece il bar, la trattoria è ancora in vendita. Capito. È un bel posto quello. Mi piaceva un bel perché dentro parcheggiavi la R4, cioè la R6. Prima, sai cos'è? Che prima secondo me guadagnavi dalla gente del posto e lì c'era un bel giro. E adesso i tempi sono cambiati, cra. Sì, la gente del posto sì. Vabbè, Sassari si spostava molto lì da Zia Martina, non lo ricordo. Ehi, passati tanti anni, però hai detto bene, i tempi sono cambiati, allora niente, se non andai in ristorante di lusso, capito? Vai, andate l'aria, quando è, forse un mese fa, con le sue colleghe, dall'assassino, ma proprio assassinati, solito menù tradizionale sassarese, no? Tutte le cosettine, assaggini, contrassaggini, poi vabbè l'aria tripa non ne mangia, però ho dato le favette, la cordola, tutte le cose che tu ben conosci, 40 euro a testa. È così, purtroppo guadagniamo a quello qua. Minchia gente, là, cazzo manco cecchini, cazzo, ci vado la vita a mangiare con 45 euro. Ma mangiare, no, roba tradizionale sassarese, insomma, cosa più consistente. È assurdo, capito? È assurdo. È aumentato un bel. E sugar. Vabbè, comunque. Si va. Intanto cosa vai? Tanto andiamo in pizzeria, quando, se ti ricordi, andavamo a mangiare la pizza, cazzo, con 10-15 euro a testa, vai a mangiare la pizza, vai, venivano i 30-40 a testa. È vero. Vabbè, io adesso sono qualche anno, vabbè, già sono andato, però diciamo che è un'abitudine adesso che ce la facciamo in casa. E noi perché qua stiamo facendo? Boh, fa l'impasto l'aria e ce la facciamo a casa la pizza. Sono già da un bel po' di tempo che non ci vado. Sono da un bel di tempo che non ci vado, capito? Perché non faccio, sono solo buttati, la stessa cosa, no? Te la fai a casa, te la condisci bene, fai una bella cosa, c'hai amici o parenti o anche in famiglia, mangi lo stesso, per andare in pizzeria, dei bosi, ti servono, beh cosa fai? E prendi 30-40 euro a cranio e hai mangiato la matessa cosa. È bello uscito ogni tanto, per carità, però quando sei più sedentario in casa è più relax. Sì, se me lo volessi dire io ci viene a mangiare pizza stasera, ma per lì vai a via, non ti va più così, sta così bene, sono con pigiamone bello rilassato, c'ho un po' di favrette, c'ho un po' di roba di pranzo, qualcosa la facciamo dopo, adesso aspettiamo l'aria, avevo già dice, capito? bello al calduccio, ma d'estate mi piace uscire di a me. D'estate sì, ma d'inverno non mi si fa. Io sono uscito a poc'anzi a portare a bere la provincia del Trenero con Nicolas, per te io ci prendiamo anche largo e siamo andati a portare, ci abbiamo fatto un giretto tra una cosa e l'altra, si è preso la barcarella del torrone, ecco, si è preso qualche dolcino, un giretto nuovo e poi una cassa. Ehi, allora, andiamo in giro te, ma in aria ieri l'ha portato, non so se c'era qualcosa in Piazza Italia, via Roma, non so, porto un po' di torrone, cioccolati, cosa così, quei pancake, infatti non ti ha giocato una giuscia, adesso stiamo per la seconda ripresa, dice torrone. Volevo prendere, ma sto evitando di fargli mangiare un po' di dolci anche a Nicolas, perché anche lui sta dando, quindi deve mangiare un po' di roba. No, se fanno allenamento, sport, è meglio dolci lasciarli stare da una parte, meglio mangiare altre cose più sostanziose, i dolci sì, vabbè, ogni tanto, cioè il sabato, la domenica, formagelle, papassine, un pezzo di quel, di quell'altro, però approfittarne non fa. Vabbè, adesso fine settimana stiamo approfittando, durante l'arco della settimana invece stiamo tenendo un po' il regime. E allora, Bastianino come sta? Mamma? Sì, io con lui c'è poco fa, adesso sta rimanendo qua, no, a dormire, perché non sarà viaggiare la mattina, così, e quindi sta dormendo giù, ma sta bene anche lui, soliti acciacchi, la vecchiaia, no, mal di schiena, di ginocchia, le solite cose che avvengono quando si invecchia. Lo so, ci siamo visti, non so se te l'ha detto, non so, mi ricordo, Balacchi, pure io ce lo dovevo tenere in bambino, non mi ricordo se eravamo al Bricoman o che cacchio ci siamo visti, no, forse al Bricoman no, forse siamo visti in viale Porto Torres, quello grande che c'è per Cina, una cosa del genere, per shop, per una cosa del genere, non lo ricordo, infatti mi ha avuto la solita pizza da reddo, sa dire, oh, caspita. Vicente Bruetto, Sì, vabbè, già sta bene, però l'ho trovato bene, dai. Già l'ho trovato bene, chiaramente non è più. Quanti ne ha adesso? 70 ce li ha. E nel 43 mio padre. Cazzo! 78. Minchia, del 43. Come la banana, ma è dove l'hai? Del 43, dottore. Del 43. E sciuga 78 anni, passa il tempo, perché tu ne hai 40? Io magari, vabbè, non volevo sbagliare, 50? 51, bella, invece ne ha 49, 48? Sì, 49, nella prima di me, due anni e mezzo. La prima di Lella, sì, Lella ne ha 53, fatti. Figlia. Il 20 ne faccio 62, io ho fatto il conto. Minchia, sembra ieri, cazzo, sembra ieri. Sembra ieri, e l'aria ne ha 30 zincome. Caspita. 35 anni, il 20 anche lì, il 20 novembre, studiamo assieme. Anche lì è nato il 20 novembre. 35 anni, cazzo, roba la matti, sembra l'altro giorno, ma te la metti. Piccolina. Allora, diciamo che il tempo sta volando, io non mi rendo conto neanche di averli questi anni, però effettivamente poi vedi i figli crescere, insomma, qualche rughetta a uscirsi, e allora si dice che stanno passando. Però sinceramente internamente, io parlo di me, mentalmente, internamente non, a parte qualche dolorino solitamente, però non mi vedo così a questa età. Lo so, però io per me 62 anni me li sento, sono goduto, acciaccato la schiena, le ginocchia quando faccio molto movimento, io ho una burchina di Aoli, così. Però sono 62 già, iniziato la cavalcata sarda, però all'età così 51-52, anche 53 no, era un grillo. Superati 55-57 ho iniziato a avere un po' di dolori alla schiena, ma io ho preso tanta di quell'acqua di freddo, cazzo, San Antone mio. Se me ricordo, guai. No, mi guarda, ciò che mi dà fastidio un po' è insomma il peso, che insomma devo cercare di contenermi, perché sennò cosa resta, grazie a Dio. Io sono dimagrito 10 kg, ero 92, sono 82, quindi riesco, ma l'ho fatto proprio per la schiena, devo ancora scendere almeno 80-79, però come fai poi in campagna, una volta alla settimana, due volte alla settimana, non so, tre, inizia lo stile a fare, soprattutto il periodo estivo, la birretta, il vino, gli amici, i parenti, capito? C'ho il mio vicino, cazzo, che ho... è una spugna, c'ha 71 anni, ma a me fa zeta zero anche lavorando, perché non facciamo i lavori, aiuto, fa male la schiena, ma a me, si mette lui, lo fa lui, capito? Ma poi d'estate siamo sempre, io da lui, lui da me, a birra in mano, è sempre bruciante, quindi è chiaro che non ce la fai a mantenere un peso costante. Poi adesso che inizia il periodo di salsiccia, abbiamo già fatto un guanciale e una bel trancio di pancetta. E fatte le salsicce? No, se ce la faccio alla prossima ancora. Quindi per Natale non ne abbiamo niente. Non ce la faccio qua. Sono incasinato. Porca paletta. Avrei preso un po', almeno per Natale, quest'anno il vostro globo, primo anno lo sono per i fatti miei, l'anno l'abbiamo fatto a casa, mi ricordo, siamo rimasti fino alle 2-3 del mattino, sono sempre a fare casino, parlando, facendo, sai, ridi, scherzi, fai, chiedo che toccava la sotto, chiedo che toccava la sopra, chiedo che toccava lo muro, ha detto, boh, basta. Ma quest'anno, se vedi fuochi d'artificio dalla collinetta di Serra Secalta, sono io o te. Non sarei da solo. No, e tutti vengono, tutti. Io ho tre sorelle e un fratello, quindi tutti. Le mie tre sorelle, mio fratello, con tutti i generi, le figlie, saremo a 30-40, c'è un bel posto, non me ne ha fatti nulla, tutti a casa quest'anno per il primo anno, proprio un casino di Gesù Cristo, poi sicuramente si aggregherà anche il mio vicino, quindi immagina già di due, apre di cielo, dove è di paratori. Va bene, dai. Di 40 anni, cazzo, in condominio, io sempre invitato, sempre invitato, la mia fratello, la mia sorella, davvero c'erano tutti a casa indipendente, mio fratello c'ha un bel condominio, sono quelle case a schiera, l'ingresso è portoghese, quindi non è che rompe le palle a nessuno, mia sorella Tintino, cazzo, ha un villone, lì all'ex Bagagnino, quindi sai, ti invitavano perché io non potevo mai fare niente, quest'anno sono tutti da me, basta, e cazzo, però lo so, hasta che non lo sei beduto con la mia, è quella la libertà che abbiamo, ti è impagabile. A chi lo dici, va bene, è impagabile, no, non c'è niente da fare, io... Non ci credevo, ma mi sto accorgendo veramente che è impagabile. Io sono mattina, quando io apro la finestra del carrello, perché c'è il corridoio, ci sono altre tre finestre che danno dall'altra parte di l'aria. Io apro, intendo prendeva. Ui, vamo, sì, di nuovo in crocetta, mi alzo alle 10:30. Gli ero basiti a carbonatici. Troppo casino, no? Invece lì è un po' più tranquilla la cosa. Sopra non c'è nessuno praticamente. Capito. Ma sì, Silenzio, però, silenzio. Oh, silenzio, lei dove? Poi c'è Filippo vicino a me, no? Ma te lo gavo, ma te dico, la facciamo? Adesso si dovrà girare la caberra, sovraggeggia, anche lui si alza, come mi alzo io alle 10, 10 e mezza. Come fa questo cane a resistere senza fare i bisogni, allucinante? Sempre una bella giornata d'estate. Oh, avvisi e già passendi. Va, fuori, fa.